Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi vi parlo di un libro che mi ha emozionato molto, mi ha colpito molto per come è stato scritto e per l'argomento che tratta. Si intitola Il primo gesto ed è l'opera prima di Marta Pastorino, pubblicato da Mondadori. Un libro in cui si parla di sentimenti, di emozioni, di incomunicabilità anche in famiglia. La protagonista è una ragazza, Anna, che fa la badante e si prende cura di un'anziana, Maria, che muore proprio all'inizio del romanzo. Muore il giorno in cui questa ragazza dà alla luce un bambino. Allora Marta, partiamo un po' dall'inizio di questa storia descrivendo questi personaggi. Io ho detto mi ha emozionato molto perché hai usato una scrittura semplice ma nello stesso tempo coinvolgente. Che tipo di rapporto tu hai con la scrittura e che hai avuto nello scrivere questo tuo primo libro? Credo che il rapporto con la scrittura sia legato veramente anche al rapporto che ho col corpo. Una scrittura, mi viene a dire, incarnata, fisica. E le due storie che iniziano e che si toccano proprio nel primo capitolo, cioè la storia della giovane e la storia dell'anziana, della signora anziana, partono proprio da lì, dal corpo. Una donna che partorisce e un'anziana donna che muore. E una, la giovane, che si prende cura proprio del corpo, soprattutto dell'altra. Le viene in modo naturale, spontaneo, anche se non l'ha mai fatto, anche se non ha mai fatto la badante. Finisce per caso a fare questo mestiere, ma arriva e proviene da 3 anni di studi di veterinaria. Questo rapporto con gli animali, così come col corpo degli anziani, avviene in modo spontaneo, come se fosse più semplice per lei occuparsi del corpo materiale, fisico, dei bisogni che hanno gli animali malati o le persone malate, che non tutto quello che sono invece i pensieri, le riflessioni e le cose che stanno rapporti intorno, insomma, al pensiero. Questo personaggio, Anna, mi ha colpito perché, appunto, dicevamo, è una ragazza giovane italiana che si prende cura di un'anziana e lo fa con una grande tenerezza. Ha sempre parole di grande dolcezza nei confronti di questa signora, di questa Maria che muore, e anche la curiosità di capire la vita passata di questa anziana, perché per esempio Maria non vede più suo nipote da tanti anni. Che tipo di rapporto, di legame c'è stato fra Anna e Maria? Una sorta di trasmissione. Trasmissione. Allora, lei fa la badante e quindi l'anziana signora ha bisogno di lei, ma questo mestiere, tra virgolette, apre un campo in realtà vastissimo di relazioni fra questa giovane, che non ne ha avute probabilmente prima, e quindi inizia ad ascoltare le storie di questa anziana, sta lì, la cura e prende, quindi ha bisogno lei in prima persona, no? di invece dell'esperienza della vita di una novantenne che è arrivata alla fine della sua vita con tutto quello che comporta anche, no? Quindi cose non risolte, conflitti non risolti, e però anche una saggezza ormai che le fa dire apri, no? Per esempio apri la pagina di un libro e lì troverai qualcosa di me. Questo Maria fa dire ai libri. Leggo l'incipit di questo romanzo. Sono rimasta con la signora Maria fino al giorno in cui è morta. Appena ho lasciato la sua casa, ho partorito. Ero al 7° mese, si sono rotte le acque. Ho preso un taxi di mattino presto per andare all'ospedale. Era buio, come se fosse stata notte fonda. Ero sola. In questo incipit, in queste 5 righe, si capisce un po' tutta la storia, insomma, di questa ragazza che, dicevamo, il giorno in cui la signora anziana muore, partorisce. Ma cosa fa del bambino? Poi il nocciolo, insomma, di questo romanzo. Non lo tiene con sé, lo lascia in ospedale, non lo può prendere tra le braccia. Non può compiere quello che è appunto il primo gesto di una madre quando partorisce un bambino, cioè quello di prenderlo, riconoscerlo e tenerlo a sé. Si dice che sia l'imprinting per un bambino la cosa più importante, no? L'abbraccio materno, e lei non lo fa, lo nega. E tutto il resto è un po'. Tutto il resto della storia che va avanti è un po' il cercare di comprendere che cosa è successo a questa ragazza. Esattamente, perché questa ragazza decide, insomma, non è costretta, però decide coscientemente di non allevare il suo bambino e quindi lo lascia in ospedale. E tutto il romanzo è un un po' una riflessione su questo primo gesto che non ha fatto e invece quello che ha fatto, cioè di abbandonarlo in un certo Forse senso. Forse sai, anche questa cosa che dici della coscienza, credo che sia a metà tra la consapevolezza e l'inconsapevolezza, perché comunque vive la gravidanza come una sorta anche di rimozione, di questa trasformazione che le accade al suo corpo. È come se vivesse una sorta di vigilanza, ma anche di sonno. Sì, si ha quasi l'impressione, insomma, che Anna sia quasi superficiale nei confronti della sua gravidanza e del bambino che ha abbandonato. Invece io personalmente ho avuto l'impressione che lei come personaggio stesse un po', come dire, su un filo, che non avesse il coraggio di approfondire, di andare a fondo a certe cose perché altrimenti sarebbe crollata. E credo che proprio sia questo, che ci sia un confine oltre al quale diventa troppo. In cui la vita diventa troppo da poterla sopportare, da poterla resistere. E quindi è come se. E questo ha anche a che fare con la scrittura per me. Il gesto dello scrivere è proprio un contenere, un qualcosa che altrimenti può esplodere, che va in una direzione fuori dalla normalità. Basterebbe poco per, insomma, far saltare tutto l'equilibrio. Sì, anche le relazioni familiari, tutto sommato la famiglia da cui viene Anna è una famiglia normale. Una famiglia normale però dove non ci si parla tantissimo, prima si diceva questo problema dell'incomunicabilità nelle famiglie. Proprio perché la normalità molto spesso in realtà nasconde una serie di problematiche che a volte non vogliamo vedere. Comunque a volte anche dipende solo dalla sensibilità delle persone, di quello di cui una persona ha bisogno, a volte gli altri non se ne rendono conto. E perché non si rendono conto magari neanche di che cosa hanno bisogno loro, o perché è troppo difficile, perché c'è il mondo fuori che richiede comunque impegno, fatica e la vita. Esatto, no? È la vita che va vissuta, insomma. Anna a un certo punto quindi abbandona la casa di Maria perché la signora anziana è morta e intraprende così un suo percorso di vita. È molto bella la scena nella quale, insomma, lei incontra quest'altra ragazza, Ramona, insomma una collega del nuovo lavoro, e conosce suo figlio, il suo bambino. A un certo punto Anna ha la sensazione di aver trovato quasi una famiglia che lei non ha mai avuto e che non è riuscita a costruirsi. Come se le cose che capitano un po' casualmente e le famiglie altrui fossero dei luoghi più semplici dove stare, riposare e avere la possibilità di creare dei legami. E quindi questo bambino che sta per iniziare la prima elementare in questa estate a Fosa, in cui lei arriva in questa città e viene accolta in questa casa, e lui la porta in giro, è proprio un po' il simbolo di questo, della facilità con cui a volte le relazioni si possono creare, semplicemente perché poi abbiamo bisogno di poco. Senza svelare naturalmente troppo della trama, diciamo anche che poi Anna andrà un po' alla ricerca del nipote della famosa, appunto, Maria, per capire anche perché questo nipote non aveva più rapporti con la nonna. E qui si apre tutto un altro discorso sulla danza sensibile, nel senso che Anna inizia a frequentare questo corso tenuto appunto dal nipote di Maria. È una cosa che tu hai provato, sperimentato personalmente nella vita? Io ho lavorato un po' in teatro e a un certo punto una ragazza che faceva la danzatrice, che lavorava con me per uno spettacolo teatrale, mi ha parlato di questo maestro che si chiama Claude Coldi, che insegnava questa disciplina, e io sono andata così a provare perché mi piaceva sperimentare in realtà quello che è il lavoro che fanno gli attori, che lavorano sulla voce, lavorano sul corpo, lavorano su il corpo e la loro materia di artistica, di costruzione, e quindi in realtà poi il corpo coinvolge anche i sentimenti, le emozioni, tutto legato ovviamente. E quindi ho provato, e da lì ogni anno faccio due seminari di danza sensibile a novembre e a maggio. E quindi ci hai messo la danza sensibile nel libro. Beh, era, simbolicamente secondo me poteva anche essere anche un'altra disciplina, no? Che comunque dove si potesse esplorare il corpo, ma poi ho sentito che era proprio giusta perché è molto semplice, ha un linguaggio primario del corpo, e Anna aveva bisogno di questo, di un alfabeto primario per scoprire qualcosa in più del proprio corpo. Il primo gesto è anche il primo libro di Marta Pastorino e ha avuto niente poco di meno che la fascetta, così come dire il consiglio di Paolo Giordano, insomma, che ha apprezzato molto il tuo libro. Che reazione ti ha fatto? Per me è stato un regalo bellissimo, proprio un dono, e l'ho trovato anche un gesto molto coraggioso. Quello di, ho pensato, lui è più giovane di me, no? Pensa a tutto il percorso che ha fatto e quanto è importante comunque per uno scrittore che inizia avere comunque il sostegno di chi è più avanti, di chi ha fatto un percorso e che ha il coraggio appunto di fare un regalo del genere. Grazie a Marta Pastorino in libreria con Il primo gesto, la sua opera prima pubblicata da Mondadori. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Vi ricordo come sempre che ci trovate anche su Facebook e su Twitter come Ale Teddina. Un saluto da Alessandra Tedesco.